falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. C'è un'antica credenza popolare che dice non tutto il male viene per nuocere, e questo si adatta alla perfezione al nostro protagonista di oggi, perché oggi parleremo di uno dei più grandi attori italiani, un attore sensibile, un attore profondo che ha avuto una seconda parte di carriera assolutamente esaltante, non che la prima non lo sia stata, un attore di grande intensità. Un signore che da bambino a 10 anni è stato vittima di un incidente sportivo, una pallonata che gli ha cambiato per sempre i connotati, in particolare il naso. Bene, io credo che i grandi siano proprio quelli che riescono a volgere a loro vantaggio degli eventi apparentemente sfavorevoli. La particolarità del suo volto, che lui ha definito picassiano dadaista, probabilmente è stata sicuramente il motore iniziale della sua carriera, ma anche nella parte matura del suo lavoro lo ha, come dire, aiutato, oltre alle sue grandi doti interpretative, lo ha aiutato a mettere a fuoco dei personaggi particolari. Oggi il protagonista è un attore inconfondibile, il grande Carlo Delle Piane, che è sempre stato un antidivo, eppure è uno che ha attraversato la storia del cinema italiano, perché ha lavorato con tutti, quando era poco più che un bambino, ha lavorato con Vittorio De Sica, con Totò, con Aldo Fabrizi, con Edoardo De Filippo, è stato diretto da Monicelli, da Corbucci, da Steno, e poi ha vissuto un sodalizio straordinario con il grande Pupi Avati, ha realizzato con lui i suoi capolavori, e lui è un interprete sensibile, profondo, ha ricevuto riconoscimento prestigiosi e molto amato all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sua recitazione intensa è stata paragonata a quelle di De Niro, di Robert Redford, di Jack Nicholson. E sentite come ha commentato lui questo paragone. C'è un mio primo piano in cui c'è tutto, c'è la delusione, il rammarico, la rabbia, e un critico importante, parlando di questo mio primo piano, l'ha paragonato come se, o equivale tanto quell'intensità di quel primo piano come se fosse Jack Nicholson o Robert De Niro. Capo cinema italiano, l'America ha Bob e Jack, voi avete me, eh? Va bene, accontentatevi. Lui dice accontentatevi, insomma, con una profonda ironia che forse nasconde anche una falsa umiltà, diciamo, però insomma, tutto questo avviene in maniera molto simpatica. Lui, pensate, ha recitato in più di 100 film, ha iniziato a 12 anni e continua a lavorare anche adesso, anche se ha compiuto 80 anni, quindi una carriera lunghissima, perché insomma non si può fare l'attore per 68 anni se non si è dei grandi interpreti e anche delle grandi persone. Carlo Delle Piane nasce a Roma il 2 febbraio del 36, è il secondo di 3 figli, la sua è una famiglia semplice, abitano nella zona vecchia di Roma, Campo dei Fiori, il padre è un sarto. Questa professione del padre avrà un'influenza importante sul modo di recitare di Carlo, almeno lui sostiene questo, sentite perché. Mio padre faceva il sarto in casa e pur di farci studiare diceva sì a tutti i clienti, e quando non riusciva a consegnare il vestito fingeva di stare male. Si faceva trovare con una mano fasciata oppure a letto accusando una febbre altissima. Inconsapevolmente mio padre era un attore. Ecco, da lui ho preso quella che è stata la sua fantasia. E poi avviene questo spartiacque il 26 ottobre del 46. Carlo ha 10 anni, è un bambino come tanti altri, magari un po' gracile, però è scattante, gioca a calcio. Durante una partita lui è vittima di un incidente, qualcosa che chi gioca a calcio conosce molto bene. Si becca una terribile pallonata sul viso, il pallone lo prende nel posto giusto, è evidentemente un punto debole, insomma probabilmente la pallonata è molto violenta, e il risultato è che quel colpo gli rompe il setto nasale. Oggi sicuramente si sarebbe fatto qualcosa, si sarebbe intervenuti, a quei tempi si aspetta solo che il male passi e tutto rimane com'è, e il naso di Carlo rimane storto e schiacciato e gli conferisce quel suo aspetto caratteristico che conosciamo tutti. Lui ha quei tempi è un bambino, insomma non si preoccupa molto della forma del suo naso. Poi un paio d'anni dopo però succede qualcosa di straordinario, qualcosa che è destinato a cambiargli per sempre la vita, perché il grande Vittorio De Sica sta iniziando le riprese del film Cuore, tratto dal romanzo di Edmondo De Amicis. Sguinzaglia per Roma, i responsabili del casting vanno a cercare dei personaggi, insomma molti registi del neorealismo italiano andavano a cercare dei personaggi per strada, e molti di questi sono diventati dei grandi attori. Hanno bisogno di bambini perché devono trovare, diciamo, la classe del professore Edmondo Perboni, quello interpretato dallo stesso De Sica. Arrivano nella scuola di Carlo, che ricordiamo ha 12 anni. Insomma, il suo è un volto che non passa inosservato, occhi molto espressivi, curiosi, però il suo profilo particolare. Insomma, i responsabili del casting lo scelgono, o comunque lo selezionano, per fare un provino proprio col grande Vittorio De Sica. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 48, l'Italia si sta leccando le ferite della guerra appena finita, e un giovanissimo Carlo Delle Piane viene portato davanti a Vittorio De Sica per fare il provino per il nuovo film di De Sica, che è Cuore, tratto dal romanzo di De Amicis. E De Sica non ha dubbi, vede questo ragazzino magro con questo viso strano, inusuale, asimmetrico, espressivo, viene colpito De Sica e gli affida il ruolo di Garoffi, che è un personaggio molto ben definito da De Amicis, che lo descrive con il naso a becco di civetta, sempre pronto a trafficare e costantemente impegnato in compravendite di ogni genere. Insomma, praticamente parlava già di lui De Amicis. E quindi Delle Piane entra in punta di piedi nel mondo del cinema, ma dalla porta principale, anche se le figure dello spessore di De Sica per adesso sono troppo lontane dal suo atteggiamento di vita, dall'atteggiamento di vita di un ragazzino. Sentite per dire cosa dice lui del suo lavoro in quei primi anni. Ma inizialmente mi divertivo soltanto, soprattutto mi divertivo anche perché mi evitava di andare a scuola, ero un bambino un po' curioso, il mio volto picassiano e pantaloncini corti, sembrava un extraterrestre. Poi ho più volte pensato che Rambaldi si fosse ispirato a me quando ha ideato E.T. Comunque io ho fatto dal 48 agli anni 60 tanti film, alcuni anche importanti, con i grandissimi attori che in quel periodo non apprezzavo, perché per me il cinema era soltanto evitare di andare a scuola, puro divertimento. Eh sì, tanti film, anche se all'inizio tutti nella sua famiglia pensano che l'episodio sia un episodio sporadico, isolato. Invece lo chiamano già per un secondo film che si chiama Domani è troppo tardi, del regista francese Léonie Mugy, ancora con De Sica, con Ave Nicchi, con una giovanissima Anna Maria Pietrangeli. Insomma, l'anno dopo è già considerato una giovane promessa del cinema. Entra nel cast di un film straordinario, un film di Monicelli e di Steno, che è il nome d'arte di Stefano Vanzina, il padre dei fratelli Vanzina. Bene, il film è Guardie e ladri, con Totò, Aldo Giuffrè, Aldo Fabrizi. Carlo ha 15 anni, interpreta la parte di Libero, il figlio di Totò. Totò è, come dire, un ladruncolo che si barcamena per mantenere la famiglia. Tema: descrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento. Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Come sarebbe? Mi ricordo che una volta, che lui litigò in autobus, uno lo chiamò scuccione. Dico, ma... Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e poi ritornare con stoppe, orologi, ombrelli e pure copertoni. Un momento. Mio padre, prima di uscire dal portone, sì, guarda sempre chi c'è per strada. E ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica! Un momento! Papà, che fai? Lo strappo. Non mi piace. I temi bisogna scriverli di fantasia, capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere le cose che succedono nella vita. Che c'entra la vita? Ma a me ci ha detto che dobbiamo essere sinceri. Vabbè, sinceri di animo. Questo conta. Non scrivere se stupidaggini. Guardie e ladri è uno dei migliori film di Totò, una delle sue opere più importanti. Totò più volte riesce a inserirsi a pieno titolo nella corrente neorealista. Il film colleziona un grande numero di riconoscimenti, di premi, tra i quali quello per la miglior sceneggiatura a Cannes. Totò viene insignito del Nastro d'Argento e Carlo Delle Piane è in mezzo a tutto questo, comincia a capire cosa gli sta capitando. Fare parte di questa realtà vuol dire avere a che fare con i maestri del cinema di quegli anni, vuol dire vedere da vicino come recitano i grandi interpreti. Tutto questo sicuramente lo forma come attore e come persona. In particolare diventa amico di Aldo Fabrizi, col quale manterrà un legame molto stretto per tutta la vita. Ed è proprio Fabrizi che nel 51 lo vuole con lui nel film La famiglia Passaguai. E Fabrizi è anche regista, è un film che avrà un sequel, La famiglia Passaguai fa fortuna, e ci sono Peppino De Filippo, Tino Scotti, Giovanna Ralli, e lui, Carlo Delle Piane, in questo film ha una parte importante, la parte di Pecorino, il figlio di Fabrizi, e in questa storia popolare di questa famiglia, la moglie Rave Ninchi, per esempio. Fermo, la roba non si mangia! Allora che avrei cucinato qua? L'avevo cucinata per mangiarla a mare, ma che si è affamato te? Ma stamattina mica abbiamo fatto colazione. Già, se mettevamo a far caffè e latte per via tua, se mettevamo. Piuttosto va a portare giù la roba, cammina. Che roba? Che roba? I fagotti, le borse, l'ombrellone. Guarda quanto è lento quella che... E già si aspetto te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, siamo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero, dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che si muovemo se poteva andare anzi. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. Pecorino! Che lagna! Ragazzi, che nascondi? Vieni qua, caccia la fettina. Che fettina? La fettina che hai rubato da là. Io? Fammi vedere la mano. No, questa, quell'altra. Ma che mi sta a piangire? Tutte e due le voglio vedere. Ma io... Mossi, non mossi. Oggi al mare non mangi nessuna fettina panata, eh? E nel 54 Steno chiama ancora Carlo Delle Piane per uno dei film più famosi nella storia del cinema italiano, Un americano a Roma, dove c'è lo strepitoso Alberto Sordi che interpreta Nando Mericoni, e insomma quello della famosissima scena degli spaghetti mette magno, no? Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. Questo è mangiato, questo è sturcio. Questa è ammazzata di cimice. Sono le cavio. Verme, io me ne mangio. E qui Carlo interpreta il ruolo dell'amico fidato di Nando, Romolo Pellacchioni, detto Cicalone. Nasce un famosissimo tormentone, state zitto Cicalo, state zitto, e Sordi glielo ripete in continuazione. Insomma, questo è il colpo d'ala definitivo, perché a questo punto Carlo Delle Piane non è più uno capitato per caso nel cinema, è un attore e comincia a pensare a se stesso proprio secondo questa prospettiva. Lui è un attore. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Carlo Delle Piane, che è un attore unico, caratteristico, col suo volto asimmetrico che lui definisce picassiano. È un antidivo, è uno che ha attraversato la storia del cinema italiano, perché oggi a 80 anni ha cominciato a recitare a 12 e ha lavorato con De Sica, con Totò, con Aldo Fabrizi, con i fratelli De Filippo, è stato diretto dai più grandi registi, Monicelli, Corbucci, Steno, ma poi ha vissuto un grande sodalizio con Pupi Avati. Nel nostro racconto siamo arrivati agli anni 60, quando Delle Piane è ancora con Fabrizi, questa volta non al cinema, perché interpreta Boietto, il figlio di Mastro Titta, che è Fabrizi, in Rugantino, la storica commedia musicale di Garinei e Giovannini, con Nino Manfredi, con Lea Massari, Bice Valori, Lando Fiorini. Fu un'edizione strepitosa del Rugantino, che poi è stata rifatta da tanti altri, da Montesano, con Alida Kelly e con Alvaro Vitali, che faceva Boietto, cioè il ruolo che in questo momento della nostra storia è il ruolo di Delle Piane. E poi c'è il decennio 60-70 e qui i film sono tantissimi, molti con Totò, forse il più interessante è Il Monaco di Monza, e poi lavora con Aldo Fabrizi, con Gino Bramieri, con Franchi Ingrassia, decine di film che entrano nel genere della commedia italiana, spesso sono comici. Nel 73 è insieme a Monica Vitti e Michele Placido in Teresa la Ladra, che è un bellissimo film tratto da un libro di Dacia Maraini. Ai ai ai ai ai ai. La pensione molisana, eh? Teresa, cerca di comprendere la sfortuna. Ma perché mi ti avvicini sempre così? Perché io ci sento benissimo, hai capito? Non c'è bisogno. Per nostra intimità. Vabbè. La sfortuna di un aspetto non gradito nasconde un amore sincero. Come hai visto che bello può essere ingrato? Se allude a tua mia santità, sei fuori strada. Pardon. Il 73 non è solo un anno di grande affermazione professionale, purtroppo la vita ogni tanto ti mostra un rovescio della medaglia terribile e inaspettato, perché Carlo Delle Piane viene coinvolto in un incidente stradale e rimane in coma per oltre un mese. Si riprenderà perfettamente, però sono cose che cambiano queste, tra la pausa del lavoro, gli effetti che subisce, chi vede in faccia la morte, insomma sono momenti particolari, e lui comincia a pensare a un mutamento radicale della sua vita, delle sue scelte anche professionali, perché in effetti probabilmente il ruolo, diciamo così, di caratterista, cioè di personaggio che può fare solo determinate parti, comincia a stargli stretto, e ha ragione lui, e ragione gliela dà anche un grande regista col quale parte appunto il sodalizio, che renderà ancora più spessa, diciamo più profonda, la carriera di Carlo Delle Piane. Il regista è Pupi Avati. Questa opportunità che mi viene data di parlare di un mio amico, di Carlo Delle Piane, l'apprezzo molto, perché si tratta probabilmente del primo incontro col cinema in senso maiuscolo del termine, che la mia carriera professionale negli anni 70 ebbe, in quanto il cinema che avevo alle spalle era stato fatto molto con gli amici, molto con le persone che non avevano alle spalle una consuetudine col cinema vero, col cinema che si era fatto in quegli anni, nel primo dopoguerra italiano. E Carlo forse era rappresentato veramente il primo attore, il primo interprete che avesse alle spalle una filmografia autorevole che sia entrato nel nostro cinema. E i due faranno molta strada assieme, una quindicina di film, personaggi straordinari, apprezzati sia in Italia che all'estero. Il primo film si chiama Tutti i defunti tranne i morti, è un thriller grottesco, molto divertente. Siamo nel 77, Delle Piane interpreta il ruolo di un venditore di libri antichi alle prese con una lunga serie di delitti molto misteriosi. Ciao Donald. Ciao. Ciao Ilaria. Ciao zio. Ciao zia. Mi trovo benone. È un galeotto? No, no, no. È solo un freno sessuale. È una terapia svizzera contro la masturbazione. Sa, si stava rovinando la vista con le sue mani. Ho capito, lei è Hilde. Questo è mio fratello Donald, detto anche il masturbatore. Esatto. Ciao, Siri. Ciao. Come va? Mi hanno messo le mannette così sono guarito. Ho capito. Lo trovo molto in gamba, suo fratello. Sono guarito. Colpo d'ala dei due arriva qualche anno dopo, 1983, il sodalizio comincia a dar vita al primo vero e proprio capolavoro. Il film è una gita scolastica, Carlo Delle Piane interpreta il professor Balla, un ruolo delicato, intenso, è un insegnante innamorato infelicemente di una bellissima collega, la professoressa Serena Stanzani, interpretata da una giunonica e bellissima Tiziana Pini. È un'interpretazione particolare e lui evidentemente la sente molto, insomma il tema dell'uomo non bellissimo che ambisce a una donna che magari lo vede solo come amico e come compagno di conversazione, è un tema che evidentemente lo stimola, e lì arrivano molti premi, il premio Pasinetti alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e poi il Nastro d'Argento come miglior attore, il Globo d'Oro come miglior rivelazione, parola strana per uno che aveva già alle spalle così tanti film. Fermi, sedete. Una volta la gente che doveva attraversare la montagna prima di farlo si fermava qua e attendeva. Cosa? L'incanto. Cosa? L'incanto. Non so chi ha incominciato a chiamarlo così, ma era considerata come una specie di spirito buono, di protezione, di compagno di strada che stava con i viaggiatori fino alla fine dello scavalcamento della montagna. E ora anche noi lo attendiamo. Sapete, io sono andato da queste parti e so riconoscerlo. Direi che forse il fatto che lui riesca a interpretare in maniera così convincente l'infelice sentimento dell'amore non ricambiato deriva forse anche da qualcosa di autobiografico. Lui stesso ha dichiarato spesso di aver avuto sempre grandi difficoltà nei rapporti umani a causa di una sua fobia particolare che gli era stata trasmessa dalla madre. Mia madre la ricorda sempre con un panno in mano, a spolverare, a spolverare, a spolverare. Da lei ho preso la mania dell'igiene, il mio rapporto con le donne. Non ne ho avute tante, quelle poche storie sono state sempre molto sofferte, ma devo dire che sono state bellissime donne, molto sofferte perché appunto per questo mio problema, geloso di tutto, anche delle cose, dei miei dischi, di tutto ciò che dei miei libri. E poi dopo un po' di tempo queste ragazze, queste donne si stancavano di me e mi lasciavano, e devo dire che dopo aver chiuso quella storia stavo meglio. E nell'86 arriva un altro film che rappresenta una vera e propria pietra miliare del nostro cinema. È un'interpretazione magistrale. Varrà a Carlo Delle Piane la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film è un film drammatico, però anche intenso, spettacolare, con un finale a sorpresa. Insomma, è uno di quei film perfetti e se non l'avete visto andatelo a cercare subito. Il film è Regalo di Natale. Carlo Delle Piane interpreta un misterioso avvocato che si chiama Sant'Elia, che viene contattato da quattro amici per partecipare a una partita di poker la notte di Natale. Peraltro Regalo di Natale è anche il film che consegna Diego Abbatantuono al cinema serio, perché Abbatantuono, dopo il periodo in cui faceva il famoso personaggio, quello diciamo di eccezionale veramente, stava segnando il passo. Questo è il suo grande rilancio. Poi ci sono altri grandi: George Eastman, Gianni Cavina, Alessandro Haber. Insomma, il film è una vicenda umana straordinaria che si serve di una metafora dostoevskiana, cioè tutto si consuma attorno a un tavolo da gioco. 50 milioni per 5. Dai, vieni via, Franco, vieni via, ti vuoi fare scambio, 150 milioni, tutto quello che hai, capisci, tutto il cinema, Franco. Lasciala in pace. Ma come lasciala in pace? Non vedi che ci sta pensando? Lasciala in pace e mettiti seduto. Chi sta pensando? Vuole rovinarsi definitivamente, voi sarete i suoi amici, belli amici. Senta, la prego di uscire immediatamente. Va bene, io me ne vado! Franco! Franco, vieni via! Allora cosa hai deciso di fare? Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due. Tre. Può alzarsi e infilarsi il cappotto. Risalire sulla sua auto e andarsene senza aver perduto nulla. Cioè lei mi abbonerebbe tutto? Non è regolare forse, ma a Natale voglio farle questo bellissimo regalo. Sinceramente una cosa del genere non mi è mai capitata. Va bene, vedi, su 250 milioni, dai. Poker di donne. E se vuole mostrarmi il suo punto. Beh, è un film straordinario, straordinario. E pensate che Pupi Avati girerà un sequel di ben 18 anni dopo, nel 2004. In genere i sequel sono deludenti, invece è bellissimo anche il sequel, si chiama La Rivincita di Natale. E poi ci sono tanti altri film dei due: Festa di Laurea, Io il Re, La Vita degli Angeli, Cavalieri che fecero l'impresa. Poi nel 2005 Delle Piane viene diretto da Ermanno Olmi in un film episodico che si chiama Tickets. Nello stesso anno reciterà per due registi che allora erano quasi esordienti, Luca Miniero e Paolo Genovese, in un film Nessun messaggio in segreteria. Poi nel 2008 c'è un'altra grande interpretazione di Carlo Delle Piane in un cortometraggio di Francesco Felli che si chiama Ogni giorno, un cortometraggio molto duro sul tema dell'Alzheimer. La protagonista è Stefania Sandrelli ed è la storia molto delicata di un uomo che ha perso la memoria ma non ha dimenticato il suo amore per la moglie. Aspetti, per carità, non dica nulla. Lei si starà chiedendo perché mi sono mai permesso di venire a disturbarla fin qui. O forse avrà capito tutto da un pezzo, magari. Poi con questi fiori in mano, anche se mi spacciassi per il postino, non sarei affatto credibile. Beh, in effetti. Eppure ho inseguito per giorni le parole più giuste. Ma ogni frase mi sembrava banale e scontata. Non assomigliava al mio amore, no. Come lei non assomiglia a nessun'altra donna. Come vede, sono una vera frana nelle dichiarazioni d'amore. Però se lei volesse accettare il mio invito a pranzo, sono sicuro che, incoraggiato dal vino, potrei diventare un poeta. Sbaglio, quei fiori erano per me? Posso avere il piacere di pranzare con lei? Certo. Ti stavo aspettando. Come ogni giorno. Beh, qui siamo veramente nell'attico della poesia, eh. In fondo è il sogno di tutte le donne, quelle di avere il proprio uomo, magari un po' intorpidito da lunghe relazioni, che ti fa un'altra dichiarazione d'amore come se ti vedesse per la prima volta. E quindi, insomma, l'Alzheimer che diventa oggetto di poesia. E Delle Piane è un grandissimo attore, però è un uomo anche particolare, un uomo con molte fobie, con paure che si è portato dietro per tutta la vita, e qualche anno fa si è aperto e ha dichiarato proprio questo. Da alcuni anni vivo solo con me stesso, non mi piaccio, preferisco l'attore Carlo Delle Piane all'uomo. Perché? È perché mi permette di fare, nei vari ruoli che interpreto, ciò che non ho mai fatto nella vita: stringere le mani, avere contatto fisico con altri personaggi. Ecco, per me lavorare è come una terapia, come andare in analisi. Ma c'è sempre una prova d'appello. Così nel 2013 Carlo Delle Piane invece si sposa, finalmente trova la persona giusta, quella che gli fa superare le sue paure. È una ragazza, Anna Crispino, ha 36 anni meno di lui, è una cantante napoletana, e lui collabora con lei anche professionalmente, anche se adesso ha compiuto 80 anni. Siamo sicuri che bisogna aspettarsi da lui ancora qualcosa di bello e qualche altro colpo d'ala. E ci sono persone che hanno saputo dare un colpo d'ala magari proprio partendo da quello che poteva essere, non dico un handicap, ma insomma un punteggio inferiore, e invece lo dicevamo prima, i grandi sono proprio quelli che sanno volgere a loro favore le circostanze sfavorevoli. Poi se dietro a tutto questo, dietro a quella maschera particolare, c'è un grande uomo e un grande attore, il gioco è fatto e Carlo Delle Piane si consegna alla storia del cinema italiano. Ognuno di noi può cadere, ma può anche volare molto in alto. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito radio24.it, oppure venite a cercarmi Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate, ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.